Radio 24 presenta Il sabato del villaggio di Marta Cagnola. Sono le 15 in punto, anzi le 15 e 5 secondi in questo momento a Radio 24 e noi ci siamo con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio, come sempre il nostro villaggio globale, questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, insomma i nostri liberi consigli per il fine settimana. Nella terza ora, poi dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Io vi tengo compagnia, ma anche voi tenetemi come sempre compagnia. Due strumenti rapidissimi per contattarci: l'SMS 349-238-6666 e il mio account di Twitter, @MartaCagnola. L'hashtag, sempre per chiusa, Twitter, il sabato del villaggio è lungo, lunghissimo, allora usiamo le iniziali cancelletto ISDV. Ma scopriamo insieme i temi della prima ora del nostro sabato del villaggio. Torna, come sempre, il gastronauta. Questa volta con Davide Paolini parliamo di tartufo. Nella prima ora anche le tecnologie con Enrico Pagliarini. L'argomento sarà la TV e non solo. Poi tanto, tanto cinema con le uscite del weekend, ma subito parliamo di ragazzi e TV. Canzone si intitola Viva, la cantano due ragazzine, si chiamano Chiara e Martina e sono famose anche per essere le gemelle Scarpari. Sono famose in Italia nonostante siano giovanissime, presto saranno molto note anche in Europa perché saranno le due rappresentanti italiane allo Junior Eurovision che si terrà presto a Sofia in Bulgaria. Abbiamo sentito Eurovision, quindi gli ascoltatori del sabato del villaggio, quelli più appassionati, sanno che il nostro più esperto di Eurovision in assoluto è Eddie Anselmi e ce l'abbiamo con noi. Buongiorno Eddie. Buongiorno Marte, buongiorno alle ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio 24, ciao. Allora Eddie, avevamo capito il concetto di Eurovision perché è diventato sempre più famoso, tanto che la prossima edizione nel maggio prossimo sbarca su Rai 1, quindi ormai anche gli italiani si sono innamorati dell'Eurovision, ma adesso cominciamo a scoprire anche lo Junior Eurovision. Intanto Chiara e Martina, che escono da Ti lascio una canzone, saranno le rappresentanti italiane. E che cosa devono fare? Che cosa succederà? Allora, lo Junior Eurovision non è altro che un Eurovision Song Contest Under 16. Partecipano meno paesi, perché non tutti hanno aderito alla convocazione dell'IBU, questa è la 13ª edizione del concorso, che è nato nel 2003 e che l'anno scorso ha visto il debutto dell'Italia con un debutto vincente, perché siamo arrivati e abbiamo vinto la canzone Tu primo grande amore di Vincenzo Cantiello, grazie alle giurie abbiamo faticato un po' al televoto, ma siamo riusciti a vincere. Ironia della sorte, quello che non ci è riuscito poi a maggio, dove abbiamo stravinto il televoto, ma siamo arrivati terzi proprio grazie alle giurie. Con il volo, però allora abbiamo vinto lo Junior Eurovision l'anno scorso, ma non l'abbiamo ospitato quest'anno. Avremmo potuto farlo, dovuto farlo? Non è nelle regole, diciamo che c'è un'opzione informale che viene dato a chi vince, ma non c'è una tradizione, solo in tre casi il vincitore ha poi ospitato effettivamente la manifestazione successiva. Precasi su 13, mi sembra, Precasi su 12, anzi, non c'è un precedente. C'è la possibilità per chi vuole, noi abbiamo, siccome eravamo freschi alla nostra prima partecipazione, abbiamo pensato che un paese più motivato, come la Bulgaria, che sfrutterà questa occasione per promozionare e fare girare il marchio Bulgaria in Europa, avrebbe potuto fornire un impegno migliore, un coinvolgimento migliore dell'intero servizio pubblico locale. Tu, che hai già vissuto questo Junior Eurovision in più occasioni, hai incontrato quindi questi bimbi bravissimi a cantare, appunto under 16, di tante nazionalità europee. È un programma televisivo, ma è anche un programma musicale. Come li hai visti, secondo te, questi bambini che vanno in televisione, soprattutto da tutta Europa? Come sono? Allora, innanzitutto io sfumerei la parola bambini. Uno per bambino pensa allo Zecchino d'Oro, pensa all'under 10, pensa ai bimbi delle elementari. Qua si parla di i più piccoli fanno forse la quinta elementare, ma si parla di quelli che sono ragazzini delle medie o del biennio delle superiori. Quindi sono ragazzi più che bambini. Al netto di questo, l'esperienza è pensate che ci sono 10-15 delegazioni nello stesso albergo, quindi oltre, e stanno lì per una settimana per provare, rileva subito l'aspetto gita scolastica. I ragazzi si divertono. Tutta la trasferta è organizzata non per fare divertire i giornalisti o per fare divertire i fans, ma per far avere un tempo indimenticabile ai protagonisti, che sono tutti, hanno esperienze locali, chi fa accademia di canto, chi porta avanti i concorsi, chi ha fatto alcune apparizioni televisive o chi debutta direttamente in quell'occasione, però vivono lo stress del palco, della gara vera e propria, con grande tranquillità, perché anche tutto il programma è fatto in modo per fargli stare bene. Questo attutisce anche, io proprio l'ho visto, da una volta ero vice capo delegazione e capo ufficio stampa di San Marino, l'Italia non c'era, e il problema più grande con il nostro rappresentante è capire in che camera fosse andato, perché era andato a fare bisboccia con un gruppo di svedesi e con le ragazzine macedoni. Quindi l'aspetto gita scolastica è una cosa normale, cioè, sì, ovviamente si divertono, nascono le simpatie, poi chiaramente i ragazzini di 10 anni fanno comunella con quelli di 11, quelli di 15 fanno comunella con quelli di 16, è normale, insomma, ed è un aspetto molto molto molto bello, che mette in condizioni appunto i partecipanti di vivere un'esperienza che altrimenti non avrebbero l'occasione di fare. Ragazzi o bambini, in TV è sempre un argomento molto molto delicato. In questi giorni parte un nuovo format sulla 5, che è una delle reti tematiche del gruppo Mediaset, una trasmissione che si intitola Tra sogno e realtà. Qualcuno l'ha già soprannominato l'amici dei ragazzi, dei bambini. Allora noi abbiamo incontrato il direttore della 5, Marco Costa, e la conduttrice della trasmissione, Manuela Fogliero, e abbiamo chiesto loro come si sono comportati con i bambini e come hanno gestito questo aspetto così delicato dei bambini e dei ragazzi in una trasmissione televisiva. La cosa che più ci è piaciuta è stato il fatto che potevamo lavorare con questi ragazzi, quindi gli abbiamo offerto la possibilità di fare degli stage, cioè non è stato soltanto una selezione, sei bravo sì, non sei brava sei scartata. Hanno avuto la possibilità questi ragazzini che vanno dai 6-16 anni di fare questo stage con Osè, con la Simona Borioni e con la Emanuela per appunto il ballo, il canto, la recitazione, e quindi da lì abbiamo costruito poi intorno a tutto questo il programma. È sempre un argomento delicatissimo quello dei ragazzi in televisione, sì. Con che spirito l'avete affrontato? Ma guarda, adesso non voglio fare una cosa, ma è la verità, perché poi infatti sia da quando lavoravo a Rete 4, a Canale 5, abbiamo avuto sempre molta attenzione ai ragazzi, sbagliando, compiendo degli scivoloni, però quindi sappiamo che è molto delicato. E quindi abbiamo fatto questo programma con la massima attenzione, quindi per i ragazzi, per le loro famiglie, per cercare ovviamente di farlo con le corde giuste, quindi anche un po', passarmi il termine, col gioco, no? Perché poi alla fine, insomma, siamo sempre lì, è giusto farlo, però senza mai eccedere troppo nelle aspettative. Quindi abbiamo cercato sempre di avere dei tratti morbidi e di coinvolgerli anche col calore. Su questo Emanuele è stata molto brava davvero. I bambini sono competitivi sani, perché anche quelli eliminati che rimanevano lì, sono rimasti tutti una settimana, facevano il tifo per quelli che erano sul palco, avevano i loro preferiti. Gli scrivevano, mi commuovo perché ormai sono anziana, perciò parlo di bambini, mi commuovo. Gli scrivevano gli striscioni, anche se loro erano stati eliminati, perciò il loro sogno in quel momento finiva lì. Quindi è più facile avere a che fare con i bambini o con i genitori? Perché noi abbiamo sempre brava. La sensazione che ci possano essere invece dei genitori un po'. Anch'io avevo molta paura, perché anch'io ho sempre sentito, no, dalla Miss Italia, quindi sono partita prevenuta, questo lo dico. Sarà che sono genitori di bambini più piccoli, non lo so. È stato bello perché intanto i genitori hanno visto i loro bambini da un altro punto di vista, come può essere successo a me quando ho visto Andrea faceva la recita e faceva il protagonista di Mary Poppins a scuola. Quindi chissà cosa farà, non si ricorderà niente, noi madri. E invece perfetto, tranquillo, e vedi tuo figlio in un altro modo, dici ma è mio? E noi siamo ancora con il nostro super esperto, in questo caso di Eurovision e di Junior Eurovision, ma non solo, è Eddie Anselmi. Abbiamo sentito questa intervista in cui Marco Costa, che dirige la 5, Emanuela Folliero, che è la conduttrice di Tra Sogno e Realtà, raccontano un po' la loro esperienza con bambini e ragazzi che hanno partecipato a questo talent show in formato junior. Tanta attenzione al competizione sana, tenere un po' a bada e coccolare i genitori perché non facciano troppe pressioni sui ragazzi, e poi l'importanza dello studio, del farli studiare, di farli vivere in un'area e in un'area un po' protetta. Eddie, cosa ne pensi? Secondo te queste trasmissioni televisive come le vedi? Soprattutto appunto tu, avendo avuto queste esperienze con lo Junior Eurovision, e lo ripetiamo, chi partecipa per l'Italia poi viene da Ti Lascio Una Canzone, quindi ragazzi e le loro famiglie hanno già partecipato a questo tipo di esperienze. Secondo te qual è il modo giusto per affrontare questa esperienza, visto che secondo me, anche se in tanti non lo confessano, è un sogno di molti genitori, di molti figli, questa esperienza di un bambino o di un ragazzo che vuole andare in televisione? Ma secondo me il lavoro più grande l'ha fatto sulle aspettative, nel senso che tutto va al netto delle aspettative. Se una ragazzina gliene ha detto vincerai e arriva secondo, è una delusione. L'altra cosa però che ho visto allo Junior, e io ho visto tutti i ragazzini, a parte il vincitore o la vincitrice, essere sconfortati dai risultati, perché tutti si aspettano sempre qualcosa di più, e quindi le lacrime, e quindi gli strilli, e quindi durano 5 minuti. Dopo 10 minuti stanno ancora piangendo, ma piangono perché è il momento di partire, devono lasciare via gli amici, ecco perché questa cosa è finita. Della gara non gliene importa più niente. Diciamo che gli adulti invece piangono più a lungo, e li abbiamo visti, si disperano molto di più. Sì, insomma, no, gli adulti non piangono quando è il momento di partire, diciamo che sono quasi sollevati di ritornare. Sì. In un ambiente più protetto. Abbiamo citato appunto i ragazzi dello Junior Eurovision che arrivano fino a 16 anni, però in questi giorni si stanno decidendo i concorrenti invece di Sanremo giovani, e devo dire che hanno più o meno quell'età, ci sono anche 17 anni, insomma molto molto giovani. Visto che tu sei super esperto anche di Sanremo, Eddie, come la stai vivendo questa attesa di Sanremo giovani? Ancora appeal la gara dei giovani di Sanremo, o aspetti solo le rivelazioni di quella dei grandi? La gara dei giovani di Sanremo sconta il fatto di essere un mondo parallelo dove partecipano non quelli che fanno musica nella maggior parte dei casi nel mondo vero, ma quelli che fanno musica per Sanremo. Questo è un difetto che nemmeno i festival di Fazio sono riusciti a scalfire, che comunque c'era anche un lavoro sulla line-up molto molto rilevante. Questo è un difetto che, a vedere la lista dei 60 e poi ancora la lista dei 12 che è stata bandata per il programma di prima serata, non sembra per il momento essere stato del tutto risolto. Lo dico difetto, però magari è un format televisivo, perché la cosa importante è che la selezione torna in diretta TV. C'è un precedente, ci sono diversi precedenti, gli anni 90, anche lì non sono precedenti particolarmente edificanti, però appunto per questo, essendo che ne ricordiamo che tutti coloro che ebbero una carriera venivano sistematicamente eliminati in questa selezione autunnale. Lou Vertigo, Max Cazzè, Alex Britti dovettero andare a aspettare un secondo tentativo perché la selezione autunnale aveva dei metodi che privilegiava voci o canzoni più classiche, più melodiche. Quindi ci consigli di ascoltare anche quelli scartati, perché magari le vere chicche le troveremo lì, i promettenti per il futuro. Io facevo nei 60, io facevo il tifo per due, una voce bellissima che è già stata all'Ariston, che si chiama Giordana Angi, che non è passata, e Mad, che avete visto a X Factor, venne battuto da Lorenzo Fragola in finale l'anno scorso. Avevano due proposte, mi piacevano, erano un pochino al di sopra della media. Tra i 12 c'è Ermal Meta, già autore, anche ha fatto dei festival in due gruppi diversi, ed è stato autore anche per Annalisa nel festival del 2013, quindi ha esperienza, potrebbe essere il momento della sua consacrazione da solista. Sugli altri devo dire so poco. Valerio Romitelli, anche lui ex Sanremo, Conchi Quadro, ex Amici, e Valerio Romitelli sarà in gara come paroliere proprio allo Junior Eurovision, perché scrive le parole inizio della canzone di San Marino. Beh, il mondo è piccolo, allora vedi che chiudiamo il cerchio. Eddie, allora seguiremo con grande attenzione lo Junior Eurovision per capire un po' ancora questo fenomeno relativo ai ragazzi. Io sono molto anche curiosa di questo Tra sogno e realtà sulla 5, insomma l'argomento di bambini e ragazzi in televisione mi sembra molto molto interessante, visto che ancora tanti adulti e tanti bambini guardano questo mondo così con aria sognante. Io ringrazio Eddie Anselmi di essere stato con noi e quindi aspettiamo anche tutte le novità di Sanremo che commenteremo insieme. Grazie Eddie, a presto. Ciao. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Il sabato del villaggio. E ci ritroviamo con Il sabato del villaggio perché è il momento del nostro gastronauta. Più di un qualsiasi invito, di un lavoro ben riuscito, più del tartufo sulle uova, di una motocicletta nuova. Io ti amo, e io ti amo. Beh, io ti amo più del tartufo sulle uova, credo sia una dichiarazione d'amore pazzesca. Poi vabbè, era Mina, chissà cosa ne pensa il nostro gastronauta Davide Paolini. Ciao Davide. Beh, anch'io, oddio, devo dire che il tartufo è una cosa che attrae in maniera incredibile. Quest'anno purtroppo il prezzo è veramente alto, quindi devo dire che chi porta a cena la propria amata quest'anno dovrà veramente sborsare, perché pare che al mercato di Alba vada sui 3.500 euro e ce ne sia ben poco. Però la tendenza tartufo può avere, per così dire, una via d'uscita, una idea abbastanza geniale, direi, di un ristoratore, di un patron di un ristorante che si chiama Andrea Alciati. Il locale si chiama Guido da Costigliole, dentro al San Maurizio Resort, e figlio ovviamente d'arte, perché il padre e la madre sono stati i grandi testimoni del tartufo fino alla loro morte. Quindi, ma lui ha avuto un'idea geniale in questo senso, che riprendendo ciò che si fa nel mondo anglosassone, ma qualche volta anche in Italia, il diritto di tappo. Cos'è il diritto di tappo? Tu ti porti una grande bottiglia da casa, lo sommelier te la apre, ti dà dei bicchieri ad hoc, te la assaggia, te la serve e ti fa pagare un diritto, una percentuale. E allora Andrea Alciati cosa ha fatto anni fa? Ha detto: beh, posso farlo per il tartufo. Cioè, tu vai al mercato, ti compri un tartufo che forse costa molto meno che al ristorante, me lo porti, io te lo pulisco, te lo guardo, te lo taglio bene, se tu mi ordini dei piatti te lo confeziono con quei piatti, e quindi sicuramente ti verrà a costare molto meno di un piatto con tartufo. E poi ti sei scelto tu il tartufo? Esattamente, poi ti sei scelto tu il tartufo, sei andato al mercato di Alba, o tanti mercati ce ne sono in giro per l'Italia, quello di Acqualagna, quello di San Pietro Avellana, San Miniato, oppure ancora San Giovanni d'Asso, insomma tutta l'Italia del tartufo, perché in verità il tartufo bianco è nominato Dalba per identificare quella precisa caratteristica, ma si trova in giro per l'Italia in diverse regioni. Certo che le Langhe, il Piemonte ed Alba sono un punto di riferimento, viene considerato un punto di riferimento, il mercato di Alba, e vale la pena di visitarlo in queste giornate per andare a vedere appunto tanti trifolau che espongono il proprio tartufo, e quando si entra dentro quel mercato si sniffa, io dico, perché molte volte c'è qualcuno che si accontenta di entrare dentro, sniffare quel profumo che emerge per dire sono stato d'Alba. E devo dire che questa trovata di Andrea Alciati io la consiglio, ristoratori d'Italia che fate piatti a base di tartufo, prendetela in considerazione, può essere una cosa interessante anche per il cliente che magari spende qualche lira in meno e si diverte anche andare al mercato. Come lo mangiamo questo tartufo, Davide? Ecco, allora io anni fa... mi faccio pubblicità, ma non ci guadagno niente. Ho lanciato un modo mio di mangiare il tartufo e devo dire che diversi ristoratori, anche a Milano, lo hanno messo in carta proprio con il nome Il Boccone del Gastronauta. Ebbene, allora lo devo spiegare un po' questa ricetta, che non è molto complicata, anzi io direi che è semplicissima. Uno prende una fetta di pane casereccio, la passa in padella per fargli prendere quel calduccino che serve, perché il tartufo ha bisogno di caldo per sviluppare il profumo. Faccio una chiosa: il tartufo bianco d'Alba o il tartufo bianco, quale caratteristica ha? Quella del profumo. Il sapore è secondario. Ma torniamo al Boccone del Gastronauta. Allora, dicevo, sono rimasto alla padella. Si scottano due fette o una fetta di pane, ci si mette un filo proprio di olio, ma leggerissimo, poi si prende il tartufo, si taglia lamelle e invece della Nutella sul pane si mettono tutte le lamelle in fila, bene una sopra l'altra, per cui coprono il pane. Sopra si mettono due chicchi di sale grosso, altro esaltatore di profumi e di sapori, così come l'olio, e poi si porta alla bocca e si mangia. Io credo che non ci sia bisogno di chef cristellati, ma ognuno se lo può fare a casa propria, e secondo me gustare così il tartufo è il massimo, perché si sente profumo e anche un po' di sapore, mentre io ritengo che se si metta dentro ai tagliolini oppure al riso oppure alla carne oppure alle acciughe, perché è un altro diciamo accostamento molto azzardato, ma provare per credere, sono le acciughe con il tartufo sempre bianco. Dicevo che tutti questi piatti diventano protagonisti, cioè i tagliolini diventano protagonisti, il tartufo perde un po' del proprio valore, così pure nel riso, così pure sulla carne, mentre alla mia maniera sicuramente si gode tutto, e appunto questo boccone di tartufo sicuramente, oppure con le uova, decisamente la canzone di Mina secondo me è illuminante. Solo nelle Langhe o possiamo andare anche altrove? No, io vi porterò altrove, perché è anche giusto, come dicevo, l'Italia dei tartufi è vastissima. E, ad esempio, in provincia di Bologna, ecco, pochi magari questo lo sanno, ma c'è un comune che si chiama Savigno. Bene, Savigno è un comune importantissimo per il tartufo. In questo piccolo comune c'è un ristoratore che si chiama Amerigo, il ristorante si chiama Amerigo, diciamo l'antipasto con cui apre sono le tigelline al tartufo. Beh, le tigelline che tu conoscerai, immagino. Sì. Ecco, le tigelline al tartufo, mentre lui, io uso il pane casereccio, lui usa le tigelline al tartufo, ed è un piatto veramente interessante. Ma poi serve anche la polenta al tartufo, quindi quella polenta, quando leggermente si scioglie appunto col tartufo, diventa veramente molto molto molto intrigante. E poi ancora tagliatelle. Beh, siamo in provincia di Bologna, non si può scappare dalle tagliatelle ovviamente, quindi, ma anche i passatelli. Ecco, di solito i passatelli si fanno in brodo, ma in questo caso si fanno asciutti perché si fanno cuocere nel brodo, così rimane questo sapore, diciamo, grasso, ma non è un grasso di quello che dire ah non lo mangio, cioè è un grasso interessante, insomma. E poi ci sono le uova, ovviamente le uova, e visto che siamo in provincia di Bologna ci sono anche le cotolette, la cotoletta alla bolognese, che viene servita con il tartufo. Ecco, devo dire che su piatti tipo come la carne molto lavorati io non sono molto, molto d'accordo. Comunque, diciamo, ci sono, la gente le mangia ed è giusto che sia così. Voglio anche sottolineare che in questo centro appunto di Savigno c'è tartufo tutto l'anno, perché si parte dal bianco e si finisce al nero, ma si finisce anche quello primaverile, per cui diciamo 365 giorni in questo locale e in questa zona appunto del bolognese si trova sempre tartufo. Beati loro che possono mangiare tutto l'anno tartufi a gogo. E andremo a trovarli tutto l'anno allora, Davide? Sì, bisogna andarli a trovare tutto l'anno, esattamente. Ci trasferiamo in Toscana. Allora, in Toscana ci sono due aree importanti, una è l'area di San Giovanni d'Asso e l'altro è San Miniato. E allora a San Giovanni d'Asso noi troviamo un locale che si chiama Osteria delle Crete, guardate, Crete Senesi, Osteria delle Crete, è un locale moderno, ben arredato, dove si mangia tradizionalmente toscano, quindi cucina toscana, in questo caso ovviamente aggiunto o non aggiunta sicuramente di tartufo, e quindi qui si possono mangiare anche qui le pappardelle invece delle tagliatelle, si possono mangiare le uova, si può mangiare appunto carne di razza canina. Questo ristorante è interessante per chi volesse andare, perché organizza anche visite guidate alla tartufaia della zona. Ci trasferiamo a San Miniato. A San Miniato il ristorante si chiama Pepe Nero, anche questo è un ristorante ovviamente che basa tutto su un menù a base di tartufo, è un bel locale, quindi, dove c'è anche varietà, perché si mangiano anche dei funghi, quindi chi magari ha fatto il pieno in altri posti di tartufo qui può anche alternare con dei funghi, e la carne in questo locale è veramente ottima. Poi scendiamo, andiamo nelle Marche, andiamo al Passo del Furlo, dove c'è un ristorante Il Furlo. Qui siamo nella zona di Acqualagna, che è un grande mercato del tartufo, e su questo faccio un ricordo storico. In questo locale Benito Mussolini una sera che era solito passare dal Passo del Furlo, si è fermato, faceva molto freddo e voleva mangiare un piatto caldo, e volle a tutti i costi mangiare un tartufo in brodo con i tagliolini. Diciamo che il tartufo è stato, invece del parmigiano, si fece mettere sopra delle lamelle di tartufo. Ebbene, è un piatto questo molto particolare che in questo ristorante Alberto Melagrana continua a proporre, però sicuramente va contro tutte le indicazioni del tartufo, perché sicuramente il tartufo messo in un brodo, insomma, perde abbastanza. Però io l'ho mangiato e devo dire proprio che può essere interessante anche questo. Ultima tappa, Sant'Agata Feltria, al ristorante Il Palazzo. Qui quando c'è la sagra si mangiano tutti i menù a base di tartufo, 5 piatti a base di tartufo. Davide, che meraviglia, ci hai fatto sognare con tutti questi tartufi e con questi itinerari, un sacco di posti da provare. Ti aspettiamo ancora al prossimo Sabato del Villaggio per parlare di un sacco di cose buone. A presto, Davide. Bene, a presto, ciao. Il Sabato del Villaggio. Ed eccoci insieme con la seconda parte della prima ora del nostro Sabato del Villaggio. Lo sanno i nostri amici ascoltatori che è il momento di parlare di tecnologie. È impossibile entrare giusta in questa canzone, perché è la canzone con la ritmica più assurda della musica pop. Turn it on again, accendila ancora, Enrico Pagliarini. Oppure spegnila ancora. Possiamo fare una puntata, un approfondimento sulla pubblicità, chiedendo agli esperti di pubblicità per quale motivo tutte le pubblicità delle case automobilistiche hanno un jingle finale musicale. Anche un effettino. Per la pasta non è così. Cioè, le case automobilistiche, forse ha iniziato una e visto che allora, sono tutti ti più o meno. Prometto. Allora, facciamo che una volta che al sabato del villaggio chiamiamo un pubblicitario. Sì. E vieni anche tu in studio e lo facciamo? E io faccio questa domanda. Perfetto. Se vuoi la registro la domanda. Perfetto. Mi piace molto. Ti voglio in studio, pigrone. Esatto. Caro Enrico, perché Turn It On Again? Perché la dobbiamo accendere ancora? Perché, un po' perché ci piacciono i Genesis, ma perché? Ma perché stanno uscendo sul mercato, non dico tutte le settimane, nemmeno tutti i mesi, però molto spesso dei prodotti da attaccare al televisore, perché il televisore sta diventando veramente una cosa molto molto complicata. E dobbiamo metterci in testa che ormai il televisore è come un computer, ha un proprio sistema operativo, ma la cosa negativa è che ci sono almeno 3-4 sistemi operativi più diffusi e quindi i vari produttori hanno il proprio sistema operativo, il che vuol dire che nella logica della smart TV, dove si possono mettere e inserire le applicazioni, ogni produttore di televisore che ha il proprio sistema operativo ha le proprie app, e quindi non è detto che su tutti i televisori ci siano le stesse app, un po' come Android da una parte e iOS, Apple dall'altra. Quindi andiamo per ordine: prima avevamo il televisore un tempo, poi ci abbiamo attaccato un videoregistratore tutto. Al limite, sì. Poi abbiamo dovuto cominciare ad avere il decoder per vedere delle il cose satellite in più. Dei canali in più. Sì, sì. Poi non funzionava più il televisore senza decoder se non era già abilitato al digitale terrestre, e abbiamo dovuto ci siamo dovuti adeguare anche a questa cosa. Esatto. Adesso però c'è un passo ulteriore, cioè oltre alla TV che noi vediamo via satellite o digitale terrestre, ci vuole qualcos'altro. Esatto, ci sono sempre più servizi che arrivano da internet. Allora, direi che il 90% dei televisori che escono oggi sul mercato si possono collegare ad internet, e da internet possono ricevere contenuti, quindi si possono vedere già alcune cose via internet con il televisore che oggi si compra. Ma visto che internet è popolato di tantissime cose, ci sono delle opzioni che si possono aggiungere. Allora, ci sono delle scatolette o delle sorte di chiavette USB che si possono attaccare al televisore tramite la porta HDMI, che è la porta, è un po' l'USB nei computer, nei televisori si chiama HDMI. Quella un po' più grandina, sì. un po' più ciccciottella. Sì, un po' più grandina. Sì, sì. Che serve per collegare i Blu-ray disc, per collegare i decoder, per insomma, si possono collegare anche delle scatolette, e questa settimana ne è uscita una nuova, si chiama Apple TV, è il nuovo prodotto dell'Apple. Che cosa ci si può fare con questa cosa? Beh, si possono vedere molte più cose rispetto a quelle che noi possiamo vedere con il nostro semplice televisore smart che si collega a internet. Mettiamoci proprio in questa logica, lo ha detto Apple, lo ha detto anche Netflix, il futuro è passare dai canali alle app. Cioè, il futuro della televisione saranno le app, e dobbiamo immaginarci che così come oggi noi cambiamo canale, né già oggi possiamo farlo, ma diciamo sempre più nel futuro, noi cambieremo app, quindi ci sarà l'app di un produttore, che ne so, della Rai, con tutta la serie di prodotti Rai. Come già ce l'abbiamo ad esempio sul telefonino, sul tablet, esatto, per vedere Rai TV, per vedere Mediaset. Però sì. Ti faccio una domanda, Enrico. Sì. Tu hai detto Apple e Netflix, cioè Netflix che è una TV, tra virgolette. Sì, è un produttore di contenuti, ecco, che eroga i contenuti, ecco, di TV. Sì. E invece Apple no, quindi no, è un È un aggregatore di contenuti. E in effetti uno potrebbe dire: ma perché devo comprare? Cioè, devo, non è che nessuno obbliga nessuno, però diciamo, perché comprare un prodotto da attaccare al televisore quando già sul televisore ho alcune applicazioni con cui posso vedere dei canali? Beh, molto semplicemente perché aumento, ma di gran lunga, la possibilità di vedere contenuti. Allora, sul nostro televisore noi possiamo avere, perché i generatori di contenuti producono applicazioni per i principali marchi, per i principali tipi di smart TV, ma sul nostro smart TV potremmo avere, che ne so, 10, 15, 20 applicazioni diverse. Se noi compriamo una cosa tipo l'Apple TV, dentro l'Apple TV, nel sistema dell'Apple TV, c'è un App Store, così come quello degli smartphone, proprio la logica è la stessa, all'interno della quale già oggi, stiamo appena partendo con questi tipi di servizi, già oggi ci sono centinaia di applicazioni, ma potenzialmente ce ne saranno migliaia. Tra l'altro nel mondo Apple, ma vale la stessa logica, varrà la stessa logica anche nel mondo Android, le applicazioni scritte per Apple possono in modo abbastanza semplice essere trasformate nello store per la TV, quindi possono già, insomma, sì, ho acquistato delle app per il mio smartphone, se queste sono state adattate al mondo della TV io me le posso scaricare anche in questo aggeggio. È un mondo nuovo, mi rendo conto, sì, è un po' che difficile da spiegare proprio perché è tutto un concetto nuovo e tra qualche anno nuovo ci sarà assolutamente familiare. Però il concetto, sì, non è detto che funzionerà, però diciamo i produttori di contenuti che arrivano dal mondo degli smartphone ci stanno dicendo la logica che conosciamo nel mondo degli smartphone, cioè che io scarico un'applicazione per fare una cosa, sarà così anche nel mondo della TV, cioè davanti a noi avremo un televisore e invece di cambiare i canali cambieremo le app, cioè salteremo da un'app all'altra. Giusto per fare un esempio, io posso già oggi, ma potrò sempre più guardare un contenuto su Netflix, voglio vedere un contenuto su un altro tipo di offerta da un altro produttore, cambio l'app e all'interno di quell'app mi trovo tutto un altro mondo. Anzi, tu mi hai detto una cosa che mi ha colpito molto: se io voglio vedere un film, sì, la carica dei 101, io dico al mio televisore trovami la carica dei 101 e lui mi dice in quali app, cioè in quali servizi io lo posso trovare. Esattamente, esattamente. Allora, sicuramente in questo ha lavorato molto bene Apple. Apple non ancora in Italia purtroppo, però già negli Stati Uniti, ma in Italia siamo tutti convinti e certi che tra qualche settimana o tra qualche mese arriverà, si può fare la ricerca anche vocale con Siri. Siri è l'assistente vocale, l'assistente intelligente, quella cui di solito tutti fanno le domande sceme per vedere cosa risponde. Qual è la reazione? Certo, no, uno può parlare al telecomando e dire voglio vedere la carica dei 101 e il sistema dice la carica dei 101 è disponibile su iTunes, su, che ne so, Infinity, su, non lo so, sparo così, non so di preciso, però questa è un po' la logica nuova con cui, dopodiché io cambio, invece di cambiare canale cambio applicazione, in alcuni casi dovrò avere l'abbonamento, cioè se io entro ad esempio in Infinity, dentro ad Infinity io devo avere l'applicazione, devo avere il contratto. Però intanto so quale se in una delle mie app che io ho, in uno dei servizi a cui sono abbonato, cioè... Esatto, c'è un passaggio ulteriore, sempre in questa logica delle applicazioni, della TV che diventa una grande somma di applicazioni, non ci sono solo i contenuti video che normalmente sono quelli a cui noi siamo abituati quando siamo davanti al televisore, ma ci sono tutta una serie di altre cose. Prima di tutto videogiochi, quindi con l'Apple TV, con questa scatoletta che noi colleghiamo da una parte al televisore, da una parte ad internet. Sì, devo dire, non è un grosso decoder, è una scatoletta piccola. Sì, sì, è una scatolina 20x20, molto piccolina, altra due dita, cioè è proprio molto semplice. Poi diciamo anche quanto costa, perché sì, non è proprio economicissima, sì, però... Ecco, io posso anche scaricare giochi e con la stessa logica che ci ha insegnato la Wii della Nintendo, cioè con il telecomando, con il controller che io muovo, funziona uguale, cioè il telecomando dell'Apple TV ha un accelerometro, una serie di sensori interni, io posso muoverlo e pilotare i giochi anche giocando con un altro amico ad esempio. Quindi videogiochi. Sì. Ma possiamo andare oltre, ci sono anche delle applicazioni che già esistono per fare shopping, per comprare cose. Sappiamo che ci sono i canali televisivi dedicati allo shopping, ci sono in questo caso delle applicazioni, noi guardiamo il contenuto sul nostro televisore e possiamo decidere se acquistare o meno, sempre attraverso il televisore, sempre poi naturalmente collegandoci ad internet. Beh, c'è qualcuno che ci scrive al 349-238-6666 preoccupato perché dice: se la TV è collegata a internet, i gusti degli spettatori vengono mappati dal produttore, sì, sì, meglio che l'Auditel. Ah beh certo, certo. No, ma l'Auditel è bello che è morto. Cioè qui sì, sì, ci sono... Anzi, diciamo che in questo caso, adesso non voglio fare polemica nei confronti dell'Auditel, tu ne sai di più che me, però in questo caso la mappatura dei gusti sarebbe vera. Certo, certo, sarebbe... Beh, non, intanto non è una cosa campione o certo, non ci sono dibattiti già, statistici. Già tutti i produttori di contenuti televisivi che lavorano in questa logica fanno questo tipo di ricerche e cercano di capire quali sono i gusti dei consumatori per dare dei prodotti adeguati all'audience. Poi nel bene e nel male, perché appunto sì, problemi sì, di privacy, come solleva il nostro ascoltatore, verissimo. Allora, nell'ultimo minuto parliamo di prezzi della Apple TV. Ah, credevo parlassimo di privacy. Un minuto per parlare allora, di ci sono privacy. Due modelli, ci sono due modelli, 179 euro per la versione 32 giga e 229 euro per la versione 64 giga. Uno potrebbe domandarsi: ma cosa mi servono i giga? Ma se io devo installare le applicazioni, credo i giga che ormai servono tutti per... quelli che usano uno smartphone la prima meno, volta sì, che l'hanno comprato hanno detto: vabbè, ma che mi servono? No, ma infatti ci sono già, c'è già chi dice 64 giga per alcuni giochi, per alcuni videogiochi che io posso acquistare nell'App Store dedicato alla Apple TV. 64 giga sono al limite, quindi certo, certo, cioè se io guardo solo in streaming o ascolto solo musica in streaming non ho spazio fisico da occupare. Ma se io installo un videogioco, perché alcuni videogiochi non possono essere fatti semplicemente in streaming, anche se il mondo dei videogiochi in streaming sta esplodendo, c'è certo, anche questa nuova versione del mondo del videogioco, però ho bisogno di memoria fisica che quindi deve essere installata su questo piccolo apparecchio. Mi piace moltissimo questo argomento, riparliamone prima di Natale perché... No, è un nuovo modo, capisco che venendo dal vecchio modo senza aver fatto la prova sia un po' difficile, però se uno prende spunto dalla logica dello smartphone è la stessa cosa, grosso modo. Riparliamone prima di Natale perché secondo me molti vorranno fare il regalo, regalarselo e capire un po', cioè, questo mondo. Adesso una brevissima pausa per il traffico e poi le app della settimana, yes, di Enrico Pellegrini. Due ne ho questa settimana. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta il sabato del villaggio. Certo è che il sole splende sempre on TV, sulla televisione, come dicevano gli AHA tanti anni fa, anche se i televisori, stiamo capendo, stanno davvero cambiando forma. Sì. Non lo schermo, non solo, ma quello che c'è dentro cambia di molto. Sì, Enrico, diciamo che possiamo essere certi che lo schermo... penso proprio che non cambierà mai. Ma rettangolare resterà rettangolare. Chi lo sa, ma chi lo sa. Hanno provato a farli di altre forme. Allora, due applicazioni questa settimana. Una che è stata lanciata, purtroppo è solo per chi abita nella zona di Milano, però per dare un po' di senso, per far capire insomma cosa sta succedendo nel mondo, è stata lanciata dal comune di Milano. Sì? Adesso io non so, francamente, quante persone che vanno al cimitero per... salutare e ricordare i propri cari, non riescono a trovare la strada per trovare la tomba giusta. Beh, forse nelle grandi città ci sono cimiteri davvero molto grandi. Sì, probabilmente. Io non abito in una grande città. Comunque, vabbè, diciamo, diamo per scontato, evidentemente ci sarà questo certo, problema. Allora, il Comune di Milano ha fatto un'applicazione che si chiama Not to Forget. È scritto Not 24 Get. Not to forget. Sono stati anche bravi nel trovare un nome simpatico. È un'applicazione che ha un database con tutte le tombe. Ah. Quindi uno va e scrive Enrico Pagliarini. Mio nonno si chiama, cioè, che è lì in cimitero. Non è a Milano, però diciamo idealmente, giusto per far capire. E tu c'ha, intanto c'hai la lista, ci sono altri che sono che si chiamano lo stesso, cioè c'è la data, tu trovi il tuo caro estinto e poi c'è la mappa. Quindi ti insegna la strada. È un servizio, utile. Però ci sembrava, insomma, mi sembrava simpatico, a parte, insomma, penso, l'argomento. Però okay, è interessante capire il mondo delle app dove si sposta. Servizi della pubblica amministrazione. App da scaricare in qualche secondo. Allora, qualche secondo. DoLine, è scritto DoLine, è stata presentata proprio oggi da Telecom Italia e dal Banco Farmaceutico per donare farmaci a chi ne ha bisogno. Ah, bello. Donare inteso che ci sono proprio i farmaci a disposizione, tu sai che un farmaco costa 3 euro, lo puoi proprio donare facendo il pagamento nell'app. Ah, per adesso bella, c'è solo idea per Android, però promettono di farla anche per sia per Apple che per Windows. Seguiamo l'idea. DoLine. Mi piace molto. DoLine. Enrico, intanto a proposito di app da scaricare, Radio 24, il podcast anche per riascoltare 2024, che però torna in onda quando? Domani alle 13.30. Domani alle 13.30 con Enrico Pagliarini. Ciao, Enrico, ciao. Al prossimo sabato, ciao, noi adesso parliamo di cinema. Ormai la colonna sonora la conoscete tutti, è quella di Bond, che finalmente è uscito, e quindi facciamo la domanda al nostro esperto Franco D'Assisti. Franco, lo andiamo a vedere Bond questa settimana? Ciao Franco. Ciao, ciao Marta, direi che innanzitutto io sono D'Assisti, Franco D'Assisti, ma detto questo... Ah vabbè, allora già sei un po' di voleva parte, sei un po'... Sei Cagnola, Marta Cagnola. Mi sento un po' più Bond girl, dai, un po' più Bond girl. Sì, sì, lo andiamo a vedere, per quanto mi riguarda lo andiamo a vedere senza se, senza ma, è un film che ci riporta, come dire, l'allure, la grandeur di una... di un'epoca in cui i film si facevano con i mezzi, si facevano con le persone, con le comparse, con le grandi scene, con l'azione, e qui anche con molta ironia, perché Daniel Craig si prende un poco sul serio in questo 24esimo film di James Bond, e molto spesso sembra parlare più allo spettatore che al suo compagno di scena sul set. La storia comincia in Messico con una straordinaria scena d'azione ripresa in maniera veramente notevole da Sam Mendes per un viaggio che poi passa dall'Italia, va sulle Alpi austriache, insomma fa mezzo mondo per che cosa? Per portare James Bond nel cuore della Spectre, che da sempre è la società segreta che fa un po' anche da suo contraltare cattivo, per una sorta di duello rusticano finale con Christoph Waltz, altro grandissimo attore. Di questo parleremo a lungo durante La Rosa Purpura, perché verrà a trovarci Ilario Citton, che è il presidente dei Bondiani d'Italia, quindi insomma gente che vuole molto, molto esigente dai film di James Bond. Parleremo, avremo l'intervista con uno degli attori italiani della parte italiana, Alessandro Cremona, che fa appunto il cattivissimo Char, che è il primo cattivo di questo nuovo film Spectre. Avremo le reazioni all'uscita dall'anteprima romana, insomma sarà un grande capitolo dedicato a questo ritorno che sta già facendo incetta di incassi in tutto il mondo, e quindi aspettiamoci un grande successo anche in Italia. Per invece le curiosità relative ai ragazzi, io, in quanto ancora un po' ragazza, sono molto curiosa del film dei Peanuts, forse perché sono un po' più della mia epoca rispetto ai personaggi di oggi. Com'è questo film? Diciamo, Marta, che forse sono ancora più per un'epoca ancora precedente alla tua e forse anche alla mia. Snoopy, Charlie Brown, i Peanuts sono qualcosa che parla anche al pubblico tranquillamente di chi oggi ha anche 60 anni, perché sono stati il modo nuovo dell'America di raccontare a fumetti storie appunto americane. Il film, a mio modo di vedere, vive un po' una contraddizione, cioè vuole tenere lo spirito molto 60 e 70, diciamo, molto figlio dei fiori, di quella banda di ragazzini e cagnolino e anche altri animali vari, molto, molto variegata e molto variopinta e molto figlia della sua epoca, di uno spirito libertario, di un'America politica democratica che guardava al futuro, e lo vuole sposare con l'animazione di oggi, quella in 3D per intenderci, stile Pixar. E la storia è poco più che un pretesto, cioè la storia di Snoopy che si imbarca nella sua impresa attraversando i mari all'inseguimento del suo arcinemico il Barone Rosso. Ma insomma, dentro c'è appunto un pizzico degli ingredienti che hanno fatto grande questa storia in tutto il mondo. Per quanto riguarda invece le uscite italiane, direi che il film della settimana è Alaska. Decisamente, guarda, Alaska è una bella prova da parte di Claudio Cupellini, tra l'altro con Elio Germano protagonista, nella storia di due personaggi, Fausto e Nadine, che si incontrano in un grande albergo di Parigi, hanno una solitudine che possono condividere, una felicità che non sembra facilmente raggiungibile. I due chiaramente, dopo essersi conosciuti, vivranno una parabola che è tipica degli amori cinematografici, cioè si prendono, si lasciano, si ritrovano, soffrono, si amano, ed è un film chiaramente sul destino, sul di dentro di questi personaggi più che sul di fuori. Devo dire, capitanato molto bene a livello attoriale da un Elio Germano in straordinaria forma. C'è ancora un film di cui ti vorrei chiedere qualcosa, che è questo 45 anni, il titolo mi incuriosisce molto. Sì, è un film che dice ancora come il cinema abbia cominciato a guardare da molto tempo anche al racconto della terza età, perché è diventato anche molto una parte importante del suo pubblico. 45 anni racconta questa coppia, Charlotte Rampling e Tom Courtenay, che si sta accingendo a festeggiare appunto il 45esimo anniversario di matrimonio. Una coppia della provincia inglese che vive, dopo così tanti anni, della sua routine, si sente comoda, si sente sicura, dopodiché però un fatto, una lettera che arriva al marito, riapre ferite che sembravano soppite. Non vi dico di più perché c'è quasi una vena gialla dentro questo film. Allora, immagino Rosa Purpurea, come ci hai anticipato, molto Bond, ma non solo. Ma non solo, Marta, perché siccome c'è tanto Bond, ma ci sono, come avete visto, anche tanti film interessanti, ma c'è anche tanto teatro che guarda caso arriva dal cinema, una provenienza cinematografica. Insomma, la commistione fra i due modi di essere attore e di raccontare storie c'è sempre, e la Rosa Purpurea la segue con grande attenzione. E noi la seguiremo con grande attenzione. Dopo il giornale radio delle 18, l'appuntamento è invece col prossimo sabato del Villaggio, insieme a te, Franco. Al prossimo sabato, ciao! Ciao, ciao a tutti. Cosa accade nel settore delle carni e dei salumi dopo le nuove indicazioni dell'OMS? L'atteggiamento del consumatore è stato un po' negativo, soprattutto nei confronti della carne bovina. Qualcosa, soprattutto nelle carni fresche, ha rallentato a livello di consumi. Radio 24 Reportage. Carni e salumi, il Made in Italy sotto attacco. Di Enrico Pagliarini. Questa domenica alle 8:15. Flash. Ciao, sono Paola. Per ascoltare la radio in digital radio devo pagare un abbonamento? No, niente abbonamento né canone. Basta comprare una radio o un'autoradio nuova, oppure adatti quella che hai già. E poi è gratis. Molti nuovi modelli di auto hanno il ricevitore incorporato di serie. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Il sabato del villaggio. Ed eccoci ancora insieme con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio, il nostro villaggio globale, questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri. E poi vi ricordo, nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio, con tutta l'attualità della rete e dalla rete. Il numero per i vostri SMS è 349-238-6666, c'è sempre il mio account di Twitter, che è @MartaCagnola, c'è sempre l'hashtag #CancellettoISDV. Ma intanto scopriamo quali saranno i temi della seconda ora del sabato del villaggio. Torniamo a parlare di TV, sempre d'attualità le trasmissioni che parlano di casa, e poi i libri del momento con i consigli di Alessandra Tedesco, consumi e tendenze tra animali da compagnia e occasioni per risparmiare online. Ma prima andiamo a conoscere un artista molto amato dai ragazzi. We'll be right back. chiedi perché il cielo è grigio e perché c'è il cemento pure in paradiso. Mi chiedi perché litighiamo, perché ci piace litigare per fare pace. Ma ci pensi mai che prima guardavamo il cielo, ora guardiamo Sky, Sky. È assurdo se ci pensi, dai. Mentre apro un'altra bottiglia di champagne, cerchi di tenermi i piedi in terra come Chagall. E non sono molto brava a stare i patti. Si chiama Fred De Palma e nel giro di poco tempo è diventato uno dei rapper più amati dai ragazzi italiani. Lo abbiamo incontrato per capire un po' della sua carriera e della sua musica, ma anche un po' dei nostri giovanissimi, per i quali lui ormai è un mito. Ci ha raccontato intanto come ha cominciato. Sono sicuramente all'inizio, perché i dischi che ho fatto in precedenza sono più che altro dei mixtape, che poi sono stati comunque pubblicati. La maggior parte sono stati free download, o quelli che non sono stati free download sono stati comunque fatti da etichette indipendenti, quindi nel senso non hanno mai avuto una grossa spinta che può essere comunque quella che ti dà una major. Non ho fatto un disco pensando di arrivare al grande pubblico, né pensando di non arrivarci. Ho fatto un disco che prima di tutto parla di me e un po' di quello che mi circonda, quindi l'unica cosa che mi sono imposto quando ho iniziato a scrivere era quella di cercare comunque di fare un disco che fosse coerente. Tu sei andato poi subito fortissimo in rete, c'è questa parola astrusa che è la web credibility, sì. Cioè una sorta di bollino di garanzia che ti dà il pubblico sul web, cioè tu sei al primo disco importante ma sei già famosissimo tra i ragazzi che ti hanno ascoltato, ti hanno scaricato, ti hanno subito fatto andare in cima alle classifiche. Sì, diciamo che ormai è un po' anche il trend che c'è in Italia. E diciamo che il nuovo talent scouting si fa, cioè si autoalimenta sul web, quindi diciamo che se solitamente poi anche le stesse etichette discografiche, le stesse major comunque quando devono scegliere il roster dell'anno, comunque il roster che vogliono, comunque secondo me guardano molto il web, perché diciamo che chi esce dal web in maniera importante, perché comunque si è creato da solo un seguito molto grosso ed è comunque il modo più veloce di avere un riscontro immediato e capire se il tuo modo di fare musica, il tuo modo di parlare al pubblico funziona o no. FDP, baby sono giù, apri i miei cancelli, è un'ora che ti chiamo, sto telefono lo accendi, ma lascia stare il trucco e slegati i capelli, beviamo finché non vedo quanto sboccia sboccelli, quando ti chiamo studio. Spesso vediamo i rapper con l'aria cattiva, ma Fred De Palma non è uno particolarmente arrabbiato. Ma no, in realtà c'è, cioè, poi vabbè, in Italia i rapper dai toni violenti ci sono, ma parlano comunque di una realtà che è molto lontana dalla nostra, secondo me. Non che in Italia non ci sia la delinquenza, c'è ovviamente, però diciamo che la delinquenza americana e quella italiana c'è un po' uno scalino di differenza. E no, io in realtà in questo disco non, come ti ho detto, parlando molto di me e un po' anche delle mie relazioni, anche un po' di quello che mi succede, non ho fatto dei pezzi molto incazzati, nel senso non troppo gangsta come si dice, ma comunque ho fatto comunque anche dei pezzi all'interno del disco che spiegano un pochino, oltre alla mia storia, anche un po' quello che mi circonda, quindi ho parlato anche un po' del mercato musicale, dei talent, del lavoro, eccetera. A proposito di talent, i talent hanno tentato in tutti i modi negli ultimi anni, soprattutto nell'ultimo periodo, di mangiarsi il rap, o perlomeno di avvicinarlo. Cosa ne pensi? Guarda, io sono stato contattato dai maggiori talent che ci sono in Italia per far parte, appunto, magari come concorrente, e ho sempre rifiutato per il semplice fatto che io penso che i talent siano un'ottima strada per chi non ha nessuna alternativa, nel senso, se sei un interprete che non sa scrivere le canzoni e ha una bella voce, penso che non ci sia altro modo oltre al talent di uscire fuori in quella maniera immediata e molto grossa. E io penso che chi invece faccia musica nel senso vero del termine, nel senso chi scrive, chi compone la sua musica, io penso che non debba per forza affidarsi a un talent, almeno non usarla come prima scelta, perché comunque il talent ti dà molto e ti toglie anche molto. Quindi in più penso che comunque anche nel momento in cui tu stai vendendo il tuo disco uscito da un talent e fai un disco di platino, in realtà poi il platino non è tuo ma è del programma, perché il disco di chi vince è un po' il gadget di chi ha guardato tutto il programma e chi l'ha seguito, non ha un valore musicale. Potresti anche vendere delle magliette, sarebbe la stessa cosa. I ragazzi e le ragazze sui social network si condividono l'un l'altro i versi, anzi le rime di Fred De Palma. Ma lui come si sente essere su tutte le bacheche di Twitter, Facebook, Instagram? Sono molto contento di questo, perché poi alla fine quando tu scrivi le rime, almeno nel mio caso, mi fa molto piacere poi quando le riscrivono, perché vuol dire che hanno apprezzato la rima in sé e che comunque mi sto rendendo conto che le canzoni di questo album rispetto a quelli precedenti stanno avendo anche più, non vorrei dire più successo perché sembra un po' riduttivo per quanto riguarda quello che mi scrivono, nel senso più hanno più, vedo che mi scrivono delle cose che mi fanno capire che stanno capendo le canzoni, non stanno solo ascoltando. Hanno colpito più nel segno. Sì, esatto, cioè io ho sempre pensato che comunque il pubblico in generale sia un po' approssimativo nell'ascolto delle canzoni, nel senso che magari quello che ti piace in una canzone è la melodia, senza neanche ascoltare troppo le parole, e quindi è un po' questo che mi ha colpito, che invece la gente ha capito il messaggio che volevo mandare e lo ha fatto anche suo, quindi mi scrivono che comunque si riescono a rispecchiare in quello che dico, eccetera eccetera, e mi fa piacere. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta il sabato del villaggio. Bello, mi è piaciuto questo Fred De Palma, ci ha detto un sacco di cose interessanti. E poi interessante conoscere i rapper, perché così è interessante conoscere il mondo anche di qualche generazione particolarmente giovane. E ve l'ho detto, i ragazzi, se guardate sui social network, Instagram, Facebook, Twitter, passano il tempo a condividersi le rime e i versi delle canzoni di questo ragazzo giovane che davvero è già molto molto molto amato in rete, Fred De Palma. Adesso però nel nostro sabato del villaggio è arrivato il momento dei libri. Hey girl, I'm waiting on ya. I'm waiting on ya. Come on and let me sneak you out and have a celebration. A celebration. The music got the windows down. Alessandra, non ti senti subito un po' ragazzina con gli One Direction? Se fossero stati Duran Duran, sì, ma gli One Direction io ero già grande, capisci? Però si stavo ballando, mi vedi. Però benvenuta sedia. Alessandra Tedesco, per parlare non di One Direction, però di libri che però hanno qualcosa a che fare con gli One Direction. Sì, perché parliamo del fenomeno After. Sfido chiunque a entrare in una libreria e a non vedere questi quattro volumi della saga After. Sono molto colorati, le copertine sono quasi arcobaleno, c'è il numero 1, numero 2, numero 3 e numero 4 che è uscito da poco, pubblicato in Italia dalla Sperling & Kupfer. Ma perché gli One Direction? Perché la scrittrice americana che ha iniziato a scrivere questo romanzo con una sorta di self-publishing, l'aveva iniziato a scrivere a pezzettini su Wattpad, che Marta Cagnola mi ha insegnato cos'è perché io non lo sapevo, è una specie di social dove appunto... Sì, una piattaforma per scrittori o aspiranti tali, invece di leggere post di diario o di blog si legge della fiction. Ecco, lei iniziava a scrivere dal telefonino appunto questi pezzi di racconti, di storie che erano ispirate appunto al cantante degli One Direction. Poi ha iniziato ad avere un sacco di follower, un furbo editore americano si è accorto del successo e ha detto: ah, e adesso io ti pubblico in cartaceo, così faccio un bel po' di soldi. E infatti devo dire che i libri di Anna Todd si leggono tantissimo, non solo negli Stati Uniti ma anche nel resto d'Europa. In Francia sono andati fortissimi. In Italia sono state vendute 500.000 di copie per 4 libri. L'ultimo, dicevamo, After, numero 4, Anime perdute, è uscito da poco. Di cosa si tratta? Ti ricordi le sfumature di grigio? Sai, noi sì, devo dire, guarda che ho finito di leggere Grey. Oddio, non lo voglio sapere. Insostenibile. Poi, posso confessarti, saltavo a pie pari le scene di sesso perché mi annoiavano. Quindi non c'era niente da leggere. Le cose più noiose di quel libro. Sì. Diciamo che questa saga di After c'è molto romanticismo, ma c'è anche un bel po' di sesso. Ah no, allora aspetta, te lo chiedo subito. Visto che abbiamo parlato degli One Direction e in particolare di questo amore di Anna Todd, la scrittrice per Harry Styles. One Direction, fenomeno per ragazzine, però i libri mi dici che sono un po' più forti? Allora, li comprano anche le ragazzine, dai 13-14 anni, però ecco, se devo dare un consiglio, non voglio fare la, come dire, quella troppo legnosetta, forse li farei leggere dai 17-18 anni in su, accidenti, insomma, perché sono belli hard. E la saga di After, comunque appunto, come dicevo, c'è anche del romanticismo, perché la protagonista è una ragazza molto secchiona, semplice all'inizio, che si chiama Tess. Lei ha un fidanzato per bene con i moccassini tutti carini eccetera, va al college e chi ti incontra? Ti incontra Arden, che invece è il contrario del suo modello di ragazzo, è pieno di tatuaggi, è il classico maledetto, insomma, che affascina. All'inizio si detestano e poi invece, insomma, inizia questa storia di passione che dura per 4 libri. Cioè, vanno avanti 4 libri, immagino, a prendersi e lasciarsi e insomma a fare cose, mettiamola così. Ok, certo. Ti posso dire che da quando esiste questa saga, Todd, ci sono molte più donne di qualsiasi fascia di età che impazziscono dal punto di vista dell'attrazione per gli uomini tatuati. È stato proprio provato questa cosa. Diciamo che sono libri che dovrebbero essere letti in ordine, proprio perché c'è una trama. Sono libroni, però io li ho visti. Sì, sì, anzi, sono devo confessare che il primo ce l'ho perché me l'hanno regalato ma non l'ho ancora letto. Prometto che leggerò anche After. Ma sai la curiosità, che devo dire, questo mi è piaciuto moltissimo. Siccome i due ragazzi protagonisti studiano lettere, studiano insomma letteratura, citano moltissimo 3 libri in particolare: Orgoglio e Pregiudizio, Cime Tempestose e Anna Karenina. È un po' loro stessi, sono un po' la versione, per esempio, di Elizabeth e Mr. Darcy, per dirla così. Allora, che cosa ha fatto la Sperling & Kupfer? La settimana scorsa ha ripubblicato questi 3 classici, però chiamandoli i classici di After, quindi con copertine simili, eccetera. Ehi, sono andati a ruba. Cioè, le ragazzine stanno ricomprando i classici come Orgoglio e Pregiudizio e Anna Karenina, e io devo dire, di questo sono ovviamente felicissima. No, bene, bene, sono contenta. Tra no, poi in realtà sono sempre contenta quando leggono. Quando leggono. Se ci sono delle scene magari da spiegare, meglio che le mamme li leggano insieme. Ma sì, ma secondo me ne sanno più di me e te messe insieme. Mamma e ti mia. Posso dire che il quinto volume della saga uscirà prima di Natale, quindi già iniziamo a dare consigli per Natale, e ad aprile invece verrà pubblicato Before invece di After, che è una sorta di prequel e sequel insieme. Ormai non si può più leggere un libro da solo, devono essere tutti a puntate come le serie TV. Vabbè, va bene così. Abbiamo già consigliato e non sconsigliato, però insomma ha dato qualche cautela per quanto riguarda il fenomeno After. Dai 18, 17-18, su. Chi lo sa, so, magari qualche ascoltatore, ascoltatrice ci scrive che i suoi figli li ha letti prima. Sarei curiosa di sapere le vostre reazioni di fronte al fenomeno After. Ma a proposito di fenomeni, questa settimana, beh, inevitabile, non possiamo non parlare dei 2 libri che hanno fatto notizia. Eh sì, quelli che sono coinvolti nel caso di cronaca VatiLeaks 2, nello scandalo del Vaticano, e cioè sono Via Crucis, scritto da Gianluigi Nuzzi, pubblicato da Chiare Lettere, e Avarizia, le carte che svelano ricchezza, scandali e segreti della Chiesa di Francesco, scritto da Emiliano Fittipaldi, che è un giornalista dell'Espresso, pubblicato da Feltrinelli. Sono 2 libri, 2 saggi, insomma, dove ci sono proprio dei documenti, e per questo è nato naturalmente il caso di cronaca, inediti, intercettazioni, insomma cose varie, documenti segreti del Vaticano, in cui praticamente emerge da una parte nel libro di Nuzzi la lotta che Papa Francesco sta facendo per riformare la Chiesa e in particolare lo IOR, e nell'altro libro, in quello di Fittipaldi, Avarizia, diciamo si fa un focus sul patrimonio del Vaticano, per esempio si va a vedere dove vanno a finire le offerte dell'8 per 1000. Sono libri che stanno creando ovviamente moltissime polemiche e ci scommetto che sono nelle prime posizioni dei libri più venduti. Non ho dubbi. Realtà che supera la fantasia, a volte è difficile fare una fiction poi con altrettanta efficacia, perché ma guarda, quando ho visto questi due libri, no, quello di Fittipaldi e di Nuzzi, ho pensato in realtà a un giallo che avevo letto tempo fa, perché l'avevo letto ancora prima che fosse pubblicato e che adesso è stato pubblicato e che vi consiglio veramente caldamente. Si intitola La pesca dello spada, l'ha scritto Eugenio Tornaghi, pubblicato da 900 Editore. Allora, Tornaghi è un alto dirigente di un grande gruppo bancario italiano che non cito, insomma, però quindi lui conosce perfettamente i meccanismi della finanza, dell'alta finanza e del sistema bancario italiano. Ha ambientato questo giallo a Milano, in una grande banca dove viene ucciso il banchiere. Ci sono dei depistaggi, perché ad indagare il commissario Libero Cattaneo, che insomma vuole la verità, ma naturalmente ci sono depistaggi di tutti i tipi, un po' la vicenda, non so se ricordate la vicenda Ambrosoli, per intenderci, sì, eccetera. E lo fa come fiction, ma tutto è molto molto verosimile, perché chi lo scrive è una persona che sicuramente conosce bene quegli ambienti, quindi chiaramente i nomi sono di fantasia. Il suo nome invece è vero, non scrive sotto pseudonimo? No, lui scrive assolutamente. Ti dico solo che il banchiere che viene ucciso si chiama Mona di cognome. E poi ci sono tutta un'altra serie di personaggi, Cattaneo che indaga, ci sono anche le sue vicende sentimentali, è un romanzo giallo. Io, lo sapete, non sono grande appassionata di gialli, ma in questo giallo finanziario ti cattura pagina dopo pagina, e soprattutto anche per chi non conosce la finanza, Tornaghi ha trovato l'escamotage di spiegare dei meccanismi finanziari che sarebbero complessi. A un certo punto, infatti, per questo poi l'ho ricollegato a Vatilix, il commissario Cattaneo dice: la politica e la Chiesa comandano nelle banche. Ah, beh, quindi per attraverso la fiction si possono capire delle cose della realtà. Ti sei ritrovata in questi libri di attualità. Continuiamo con un altro consiglio di quelli dei tuoi che mi piacciono molto. Beh, intanto allora La pesca dello spada lo consigliamo agli amanti dei gialli, ma anche a chi volesse... Guarda, anche a chi semplicemente vuole capire i meccanismi del potere in Italia e lo vuole fare attraverso una fiction. Bene, mi incuriosisce moltissimo. Adesso però vedo che hai davanti un libro con una di quelle copertine che mi spingerebbero subito a comprarlo. Bello. Ma posso anche dire agli ascoltatori che ci sarà una ventina di post-it che costellano le pagine del libro, anche forse più di 20. Sì, c'è un intero blocchetto di post-it attaccato alle pagine del libro, quindi ci sono molti punti che devi recuperare. Allora, lo scrittore inglese Matt Haig è quello che aveva scritto per esempio Il club dei padri estinti, e adesso ha fatto una sorta di coming out, ha confessato cioè di aver avuto una depressione nella sua vita e l'ha raccontata in questo libro molto bello che si intitola Ragioni per continuare a vivere, la storia vera della mia depressione e di come ne sono uscito, da Ponti alle Grazie, pubblicato da Ponti alle Grazie. Ora, mi è piaciuto molto perché innanzitutto è una storia molto vera, reale, lui la racconta bene, non in maniera eccessivamente drammatica, senza togliere il peso a quello che gli è successo. A un certo punto fa anche delle cose che fanno sorridere, fa degli elenchi, per esempio dice: i miei amici mi hanno dato più solidarietà quando mi sono rotto un dito del piede, ho dovuto fare un lavoro che non mi piaceva, dovevo fare questo, questo e quest'altro, e non invece quando ho avuto la depressione, che è comunque una malattia anche se gli altri non lo vogliono riconoscere. Quindi secondo me un libro che consigliamo. Io lo consiglio a chi ha avuto una depressione, così sa di non essere solo, a chi ha accanto una persona che ne soffre, e a tutti gli altri, per capire che nel mondo non esiste solo rompersi una gamba, ma ci si può rompere anche ogni tanto una parte del cervello e poi la si ripara con calma. E che i depressi non sono persone lamentose o tristi. Lui aveva una depressione ansiosa, quindi era su di giri sempre, quindi insomma non l'avrebbe avrebbero mai detto. Beh, non vedo l'ora di leggerlo. Per tante tante ragioni credo di avere molta voglia di leggere queste ragioni per continuare a vivere di Matt Haig. Un'altra cosa non vedo l'ora di fare. Senti che collegamento, che volo pindarico. Non vedo l'ora di ascoltare Il cacciatore di libri. E stasera abbiamo Wilbur Smith, niente poco di meno che il re dell'avventura. Stasera alle 22 con Wilbur Smith faccia a faccia sul suo ultimo romanzo. E poi ci sarà anche una scrittrice esordiente. E poi anche il podcast Radio24.it, il tuo account di Twitter alle teddine. E poi noi insieme il sabato prossimo, il sabato del villaggio. Eh sì, e poi sulla pagina Facebook del cacciatore di libri metto sempre l'elenco di tutti i libri di cui parliamo del sabato del villaggio. Se no ogni volta mi scrivono: ma non ho fatto in tempo a scrivere il titolo, quale titolo è? Quindi lo trovate su il cacciatore di libri trattino Radio 24, pagina Facebook. Grazie Alessandra, al prossimo sabato. Il sabato del villaggio. E in questa seconda ora del sabato del villaggio abbiamo prima incontrato un rapper molto giovane che ci aiuta anche un po' a capire il mondo dei ragazzi, Fred De Palma. Poi abbiamo parlato ancora di ragazzi perché abbiamo incontrato After, questa saga che appassiona soprattutto le ragazzine, e tutti i consigli di Alessandra Tedesco. Adesso però nel nostro sabato del villaggio è il momento dei consumi. Walking the Dog, portando il cane a passeggio, era una vecchia, vecchissima canzone di Rufus Thomas, ma c'entra con l'argomento di oggi che trattiamo insieme a Maria Luisa Pezzali. Ciao Maria Luisa. Ciao Marta, un saluto a tutti. Ebbene sì, sempre perfetta tu con la scelta musicale. Cerco di ispirarmi, mi hai detto animali domestici, animali da compagnia, non esatto. So perché, ma perché appunto? Perché innanzitutto parliamo di un settore, lo dobbiamo dire, che non ha mai sofferto la crisi, a maggior ragione non la soffre ora che ci sono segnali di ripresa a livello generale. È il mondo appunto dei pet, degli animali domestici, gli animali da compagnia. I prodotti a loro dedicati ormai sono moltissimi, quindi crocchette, ma non solo. Pensa Marta che il mercato del pet care, quindi alimentazione ma anche cura degli animali da compagnia, vale 1,8 miliardi di euro nel nostro paese. Beh, devo dire che tanti sono gli appassionati di animali da compagnia. Anch'io lo sarei se potessi avere un cagnolino, mi piacerebbe tanto. E poi tendono a essere sempre molto generosi con i loro amici. E pensa ai numeri, perché sono andata un po' a vedermeli, sono molto belli da raccontare. 60 milioni di pet ci sono in Italia, 14 milioni di cani e gatti. Secondo cioè 14 te... milioni in tutto. Sì, di questi 60 sì, milioni sì. Di animali domestici. Secondo te più cani o più gatti di questi 14 Guarda, milioni? Guarda, faccio una statistica pensando ai miei amici. Io sono una fan dei cani, però credo più gatti. Esatto, brava. Più gatti. Il 51% di questi 14 milioni sono gatti. 30 milioni di pesci. Il pesce lo tieni lì in casa, nella boccia, non richiede tanto affetto. Poi anche se sei fuori casa può stare lì, nuota. Credo perlomeno, magari adesso ci scriverà qualche esperto di pesci che invece dice che dobbiamo tenerli molta compagnia, non so. Esatto, e poi 1.700.000 piccoli roditori, quindi conigli, criceti, eccetera. Mi piaccio meno. Vedo la tua faccia. Sì, mi sembrano un po' topini, okay. No? Vabbè, 1.300.000 rettili, questi proprio non li consideriamo. Non sono il mio genere. Insomma, un mercato assolutamente ricco e anche in linea, bisogna dirlo, con tutti i trend di consumo, tanto che oggi voglio parlare della prima piattaforma italiana della sharing economy dedicata al mondo del pet sitting. Si tratta di PetMe, quindi PetMe.it, prima community italiana che mette in contatto chi cerca qualcuno a cui affidare il proprio cucciolo con chi è disposto a farlo. Servizio molto utile. Ma cavoli, certo. Devi andare in vacanza. Io vado subito a curiosarlo. Bravissima. Devi andare in vacanza oppure hai una trasferta di lavoro oppure ancora succede un ricovero in ospedale per qualche giorno, magari non sei nella tua città dove hai tutta la tua rete familiare di riferimento, hai bisogno di un pet sitter. Nata nel 2014, conta già, pensate, 20.000 utenti, di cui 7.000 pet sitter. Ci siamo fatti raccontare tutto, soprattutto come funziona, dalla fondatrice che è Alice Cimini. PetMe è la community dove si può trovare il pet sitter che può occuparsi del nostro animale quando noi non possiamo. Offre servizi di pet sitting a tutti gli animali, quindi che sia cani, gatti, conigli, ma anche animali esotici. La registrazione è sempre gratuita, per cui tu come utente proprietario inserirai il nome della tua città o anche cap, immediatamente vedrai una lista di nominativi di pet sitter. Di ognuno di loro potrai leggere la scheda, il curriculum, eventuali certificazioni dove queste ci sono, la descrizione della casa, e potrai scegliere se appunto optare per un servizio presso il tuo domicilio o anche far ospitare il tuo animale. Ovviamente lì è importante sapere che tipo di animale hai, perché ad esempio io che ho gatti, i miei gatti non amano andare via dalla casa propria, quindi sceglierò di più un servizio a domicilio. Vedrai subito le tariffe e ovviamente le recensioni, se quel pet sitter è stato già utilizzato da altri. Potrai contattarlo direttamente dalla piattaforma. Noi invitiamo sempre gli utenti non solo a scrivere e indicare le proprie necessità, ma anche a incontrarsi, soprattutto se l'animale deve essere ospitato, quindi vedere la casa. Fatto l'incontro, deciso il pet sitter che risponde meglio alle tue esigenze e a quelle del tuo animale, potrai prenotarlo direttamente dalla piattaforma e da lì appunto inizierà il servizio. Cosa fondamentale, che nella tua prenotazione è inclusa l'assistenza veterinaria gratuita per le emergenze, quindi durante il servizio di pet sitting, se dovesse accadere qualcosa a tuo animale, PetMe rimborsa le spese veterinarie. Quindi un servizio per chi appunto si trova nella necessità di dover affidare il proprio cucciolo, e anche una fonte di reddito integrativo per chi ha la professionalità o la passione per accudirli, questi cuccioli. Ecco, chi è l'utente tipo di PetMe, sia dal punto di vista di chi richiede il servizio che del pet sitter? Allora, diciamo che l'utente in generale, noi col fatto che grazie a Dio, come dico io, tutti, molti in Italia hanno animali, è molto trasversale. Sicuramente possiamo identificarlo molto, sono tante donne innanzitutto, e soprattutto sono ovviamente persone che in qualche modo sono avvezze già a utilizzare, ecco, piattaforme di questo genere. Un'età che va in realtà dai 30, ma abbiamo anche utenti fino ai 60 anni, insomma. E dall'altro lato, chi invece si propone come pet sitter, sottolineando il fatto che spesso chi è proprietario poi decide anche di essere pet sitter, no? Quindi abbiamo anche questa doppia faccia, insomma, dell'utente. Chi è pet sitter spesso o viene da un percorso professionale legato al mondo animale, educatori cinofili, veterinari, studenti di veterinaria, o volontari. Ad esempio, noi abbiamo tantissimi volontari che operano nei canili o associazioni appunto per il benessere animale, o anche ci sono tantissime persone, devo dire la verità, che magari hanno avuto tantissima esperienza con animali, che sono in pensione e che appunto si dedicano a questa passione. Baby Mac, dressed in black. Io voglio fare la pet sitter, ho visto le foto sul sito, no, ho troppo voglia di coccolare qualche cagnolino, faccio scrivere le referenze del cane dei miei nipoti. Il tuo piano B oppure piano A più, insomma, sì, è già pronto. Sì, sì, anche solo così per hobby, faccio scrivere le referenze da spot, il cane dei miei nipoti, con quale passo molto tempo. Un'idea vincente, Marta. Bella, bella. Sicuramente, bella. Magari come quella, insomma, come sempre, della nostra Cristina Lazzati. Ce l'abbiamo Cristina. Eccovi, eccola buon pomeriggio. Qua. Cristina, sempre con le tue idee anticrisi, che questa volta dove ci portano? Allora, a casa, davanti al proprio computer, con in mano il proprio iPhone, tra pochissime ore parte la notte bianca dello shopping online italiano. Oh. Quindi abbiamo battuto tutti sul tempo, altro che Black Friday, altro che Cyber Monday, che avvengono di solito a fine novembre. Il consorzio Netcom, che di fatto è il consorzio che riunisce tutti quelli che fanno commercio elettronico italiano, insieme a QVC, la famosa televisione delle vendite televisive, sono messi insieme e hanno inaugurato questa cosa. Quindi dalle 6 di questo pomeriggio, di questa sera, fino alle 9 di domani mattina, una serie di marchi, siti, eccetera, offrono sconti, consegne gratuite, regalini, eccetera. Basta andare su il sito dove andare ad informarsi e vedere se c'è qualcosa che ti interessa, è www.allnightshopping.it, oppure l'hashtag per chi utilizza i social network è hashtag allnightshopping. Se cosa avete sentito rumore di tastiere, perché io sto controllando, visto che finisco proprio alle 18, quindi esco dallo studio con la carta di credito tra i denti. Beh, io non so tu, Marta, io sono molto pericolosa in questi casi, anzi la mia coscienza mi dice mettila nel freezer come la protagonista di I Love Shopping, sì. Ti ricordi? Cosa possiamo, dai, dacci qualche anticipazione, Cristina. Allora, tra le cose carine, e dove peraltro c'è proprio il regalo, quindi 10% di sconto va bene, eccetera, eccetera, ci sono gli amarelli che vanno sempre bene, la liquirizia. Certo, liquirizia. Amarelli in shop, per chiunque compri faccia un acquisto utilizzando, ci sono i codici, attenzione, non tutti ma molti hanno i codici, in questo caso Notte Bianca 15, avranno oltre quello che comprano anche un regalo, un kit degustazione che ha 10 varietà di liquirizie, e questo a gratis, come si dice. Poi c'è Beta Night, di cui non sapevo l'esistenza ma trovo carinissima, che sono due sorelle che sferruzzano di fatto e hanno un negozio online in cui vendono tutta una serie di cose realizzate a maglia con delle lane peraltro pregiatissime. Qui si può scaricare un pattern dove per fare un cappellino, e se si comprano le cose per questo cappellino ci sarà il 15% di sconto per farselo a maglia a casa propria. Bambini, prima tu citavi i nipoti, c'è tabatashop.com, che è tutto uno di questi siti dove ci sono le cose biologiche, un po' da mangiare, un po' di abbigliamento, che a chi fa acquisti regala un cuscino con un guffetto fatto con i noccioli di ciliegia, quindi molto sano, non particolarmente morbido, ma sicuramente molto sano e molto comodo. Infine, avete adolescenti, negative.it, che già dal nome si capisce che sono adolescenti un po' arrabbiati. E queste invece, che sono appunto questo merchandising rock, metal, alternative, dove ci sono oltre 70.000 titoli di CD, LP, DVD, rock e metal, oltre che una serie di abbigliamenti. Allora, sui CD e DVD niente sconto, ma su tutto il resto c'è il 15% su tutti i prodotti, anche su quelli che sono già promozionati, eccetera. Quindi, diciamo, io ho dato un'occhiata su questa negative e devo dire che non capisco, ma mi adeguo, e quindi, avendo un figlio più che adolescente, forse lì qualcosa per Natale mi porta avanti e appunto risparmio. Infatti cominciamo già a pensare a quello che potrebbe servirci per i regalini, poi effettivamente se ci sono degli sconti... Beh, un'ottima idea, usarli portandosi avanti, insomma, novembre, così. Anche perché così siamo in tempi, non abbiamo l'ansia delle consegne, se compriamo online sicuramente arrivano, perché io poi a volte compro un po' più avanti e mi viene l'ansia che le cose non arrivino in tempo. Sì, a me è già successo in quel caso bigliettino con la foto esatto. Del regalo, questo sì. Sarebbe stato se fosse arrivato in tempo, arriverà. Cristina, grazie per essere stata con noi, preziosissimo, quindi io alle 6 scatto sul sito, cioè allnightshopping.it. Perfetto, a tutti, arrivederci, buon pomeriggio, buon shopping. Grazie Cristina, anche a te, immagino che anche Cristina andrà a farsi un giro. Luisa, invece, l'appuntamento con Essere Avere. Domani alle 22, come sempre. Ciao Marta, ciao a tutti. Needle and she can't sew. Walking a dog. Yes, a walking bird dog. Che bella era questa Walking the Dog, che mi ero assolutamente dimenticata. Allora, abbiamo ancora un quarto d'ora per stare insieme con il Sabato del Villaggio. Vi anticipo già che parleremo di televisione. E poi però c'è ancora l'ora di RadioTube per stare insieme dalle 17 alle 18. Adesso una brevissima pausa per informarci su come sta andando la situazione su strada e autostrada, e poi saremo ancora insieme. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Il Sabato del Villaggio. Dicevo che avremmo parlato di televisione perché c'è un fenomeno che non accenna a fermarsi. C'è una grande passione da parte degli italiani per tutti i programmi televisivi che parlano di case. Case da comprare, case da vendere, case da ristrutturare, case da modificare, case solo da sognare. E cerchiamo di capirne un po' di più da una persona che ne sa veramente, veramente tanto, perché è appena tornata in TV con questa trasmissione. Vendere casa? Sempre più difficile. Questa vasca? La vasca è improponibile. Quando poi i problemi sono così tanti e fastidiosi che i clienti scappano, diventa impossibile. Ma c'è sempre una soluzione e Paola lo sa perfettamente. Io ho delle idee. Col suo aiuto e con quello di Andrea, architetto dalle mille risorse. Buongiorno. Un venditore disperato vedrà il suo appartamento trasformato e pronto per l'assalto dei clienti. E adesso? Molto meglio. Perché basta poco per passare da una casa segnata dal tempo. Mancava un po' di carattere a questa casa, gliel'abbiamo dato. A una sognata da tempo. Io sono appassionatissima di tutte le trasmissioni che riguardano le case, la vendita delle case, le ristrutturazioni delle case, però lo devo dire, c'è solo un'esperta. Io mi fiderei ciecamente di dare la mia casa proprio a lei e solo a lei. Lei è straordinaria. Io so che già, se vi dico che è la più esperta di tutte di case in televisione, avete capito che sto parlando di Paola Marella. Buonasera Paola. Buonasera Marta, grazie per l'invito, grazie mille. Allora Paola, ricominciato giovedì sera con le tue avventure televisive in fatto di casa, questa volta vendi casa disperatamente, o meglio, aiuti quelli che stanno disperatamente cercando di vendere casa. È mai più attuale di adesso, perché è un problema che purtroppo, ahimè, sappiamo essere molto attuale. Soprattutto abbiamo visto come i dati hanno dimostrato che si sono allungati i tempi della messa in vendita degli appartamenti, per cui direi che il vendo casa disperatamente giunge proprio al momento forse più giusto, ma anche se in realtà, ahimè, questa crisi sappiamo che dura già da tanti anni. Ci sono trasmissioni che magari vediamo americane, tradotte, sottotitolate, che sono completamente diverse dal nostro modo di vivere la casa, case di cartone che vengono abbattute, ricostruite. Invece tu fai una cosa che si può davvero fare quando una persona cerca di vendere casa, migliorarla, che si dovrebbe, esatto. Oh, questo mi piace, migliorarla. Che si dovrebbe fare, e io credo che un po' stiamo passando questo messaggio ormai da tanti anni, perché in effetti la sesta edizione abbiamo iniziato nel 2009 e in qualche modo incominciamo a vedere qualche risultato. In realtà nel vendo casa non facciamo altro che fare un po' di home staging. L'home staging è qualcosa che nasce proprio negli Stati Uniti, ma in realtà in Italia in maniera presuntuosa, io dico sempre, un po' l'abbiamo sdoganato noi nel 2009 perché non si conosceva. Complice questa crisi, come abbiamo detto, che dura da tanto tempo, complice il fatto che una necessità di vendere in tempi non così lunghi, è diventato quindi molto attuale fare questo restyling di una casa. Io la chiamo remise in forma, direi che ancora meglio, della casa prima di metterla in vendita. E devo dirti che questo premia, perché la puntata che abbiamo visto lì mi ha dato una grande soddisfazione. Chi l'ha vista ha visto che veramente era conciatissima quando l'abbiamo presa, e l'abbiamo riconsegnata alla proprietaria e in 20 giorni la casa è stata venduta. Quindi tu capisci che è una grandissima soddisfazione. Remisa in forma della casa, ma mi verrebbe da dire che ti tocca fare anche un po' di remisa in form del format ogni volta, perché bisogna sempre rinnovare un po' le idee televisive. Sicuramente in questo caso, essendo stato fermo poi il vendo casa circa un anno e mezzo, e sicuramente in questo caso abbiamo proprio fatto una remise in forma del programma, cioè abbiamo cambiato alcune cose, abbiamo cambiato innanzitutto la grafica, l'abbiamo reso un pochino più moderno anche nel montaggio, abbiamo focalizzato il tutto su un'unica casa e molto sia sul venditore, che era già molto sotto la lente nostra, ma soprattutto abbiamo focalizzato la nostra attenzione sui possibili acquirenti, perché è molto importante la reazione dell'acquirente, del possibile acquirente, prima dei lavori e dopo i lavori. E questo l'abbiamo voluto, come dire, accentuare in maniera maggiore in questo nuovo vendo casa con l'open day, questa giornata che noi diciamo, dedichiamo ai possibili acquirenti quando abbiamo finito il nostro lavoro e dove in questa giornata gli acquirenti possono girare liberamente all'interno della casa che noi abbiamo messo a posto e poi riempiono delle schede, diciamo, con le loro valutazioni. Diciamo che abbiamo cambiato un pochino, insomma, proprio la struttura. Paola, quando le persone ti incrociano per strada e sicuramente ti riconoscono subito, che consigli ti chiedono? Guarda, innanzitutto tanti colori. Ecco, questo io l'ho passato molto. Io questo lo sono riuscita a passarlo perché devo dire che è una cosa che anch'io una volta, tanti anni fa, amavo il bianco. Oggi, secondo me, i colori ti possono dare molto stile a un'abitazione. Semplicemente cambiando i colori tu puoi rendere molto più stilosa, molto più personale una casa. Quindi il colore piace, adesso lo senti, lo sentono, anche perché in realtà oggi la tecnologia ci ha portato in un mondo straordinario che è non solo quello delle ceramiche che in questi ultimi 10 anni hanno cambiato completamente proprio il panorama, non parliamo dei colori, che i colori veramente oggi abbiamo anche dei colori materici che sono straordinari, per cui insomma abbiamo avuto la fortuna in questi anni di avere anche un'evoluzione tecnologica straordinaria che ci aiuta molto. Ma le persone che ti chiedono consigli ormai avranno tutte una proprietà di linguaggio elevatissima, ormai sanno tutti come ci si esprime, sì, parlando di case? Sì, beh, adesso non proprio, perché devo dire la verità, ogni tanto ancora vedo degli orrori incredibili, però diciamo che c'è un sentimento diverso nell'approcciare il discorso della casa, perché una volta, se vuoi, diciamo, vabbè, a parte IKEA che ha sdoganato un modo di arredare molto semplice ma molto efficace, perché anche nella sua semplicità comunque ha affrontato il discorso del design a basso costo in maniera straordinaria, però diciamo che negli ultimi anni se vuoi si è riusciti ad appassionare l'utente finale sempre più, proprio perché c'è una possibilità. Per esempio, io che vado spesso al Cersaie, voi lo sapete molto bene perché mi avete ospitato al Cersaie a ottobre con la vostra bellissima trasmissione del mattino, al Cersaie da 3 anni che c'è questa idea di andare a raccogliere un po' l'utente finale con questa giornata dove c'è Cersaie disegna la tua casa, dove gli architetti si mettono a disposizione dell'utente finale. E se vuoi è proprio un discorso di avvicinare l'utente finale a un discorso, se vuoi, lì ancora più difficile, che è quello della ristrutturazione vera e propria. Quindi in un certo modo l'italiano in questi ultimi anni si è avvicinato al discorso della casa anche da un punto di vista di lavori, che una volta tu facevi una casa e per 30 anni non la toccavi più. Verissimo, verissimo, verissimo. Invece adesso gli italiani sono più attenti a questo, sono molto, molto contenta. E poi mi piace perché sono tutti appassionati e cercano di metterci il loro tocco. Bello. Sì, davvero. Io sono molto in questo, sono molto orgogliosa, devo dire. Mi prendo un po', diciamo, di merito, ecco, così, sai, come la mamma con i bambini, no? È un po' quello, secondo me, io me lo sento molto. D'altronde io sono talmente appassionata a tutto questo mondo che io cambierei casa ogni 2 o 3 giorni più o meno. Paola, io continuerò a guardare, vendo casa disperatamente prendendo appunti, anche perché siccome casa mia è molto bianca mi hai messo la pulce nell'orecchio, ci metterò un po' più di colori. Allora, guarda, farò attenzione. I compiti più colori. Bene, brava, la prossima volta che ci sentiamo mi dici se ti ho ispirato con le nuove puntate del Vendo. Ti ringrazio davvero tanto, Paola Marella, per essere stata con noi. Buona serata, l'appuntamento Vendo casa disperatamente ancora giovedì su Real Time. Grazie Paola. Grazie a voi, grazie, buona serata. L'erba è alta, ormai lo so, e dovrei potare il melo. Quanta polvere c'è dentro casa, è tutto un velo. Dai, vendo casa ci sta benissimo, Battisti ci sta benissimo, no, perché abbiamo discusso se ci potesse stare vendo casa di Battisti oppure no, perché a Gianni in regia e a Cristian in redazione non piaceva tantissimo, sono troppo giovani, non capiscono. Vabbè, noi adesso ci interrompiamo per un attimo perché abbiamo il giornale radio importantissimo delle 17, poi saremo ancora insieme.